754. Gelato di limone. Zucchero bianco fine grammi 300, acqua mezzo litro, limoni numero 3. Potendo è meglio servirsi di limoni di giardino che hanno gusto più grato e maggiore fragranza di quelli forestieri, i quali sanno spesso di ribollito. Fate bollire lo zucchero nell'acqua con qualche pezzetto di scorza di limone per 10 minuti a cacciaruola scoperta. Quando questo sciroppo sarà ghiaccio, spremetegli dentro i limoni uno alla volta, assaggiando il composto per regolarvi con l'agro. Passatelo e versatelo nella sorbettiera. Questa dose potrà bastare per 6 persone.